Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Salve a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Luce nei Tenebri. Io sono la Bisa, qui con me Eleonora. Ciao di nuovo. Oggi sarà una puntata un po' particolare perché abbiamo deciso di prenderci una pausa dopo questi 3 anni di trasmissione per fare una specie di riassunto di quelli che sono stati i 3 anni, ecco, e fare una puntata più leggera. Lele qui, da quanti anni è che fai la trasmissione? Ormai quanti sono? 2 o 3? 2, non mi ricordo in realtà, però almeno 2. Almeno 2, poi si è specializzata, adesso fa anche il tecnico, quindi ha avuto anche un progresso di carriera. Adesso ho fatto un salto di qualità, quindi posso darmene di più. Ma torniamo indietro, non tutti magari hanno seguito Luce e Tenebre fin dall'inizio. Luce e Tenebre è un programma qui ospitato da Radio Città Fujiko, che appunto è nato dal Presidio Universitario di Bologna. Siamo un'associazione di studenti universitaria ormai riconosciuta, che facciamo appunto principalmente attività di antimafia, ma abbiamo questo spazio a noi molto gradito. E aspetta, prima parliamo del nome. Chi l'ha scelto questo nome? Sì. Assolutamente dubbio. Allora, la leggenda narra, no scherzo, Luce nelle Tenebre, in realtà l'idea l'ho avuta io. Però insomma penso sia stata accolta positivamente da tutti. E Luce e Tenebre perché la canzone originale, la sigla, è A Patrol to Arms di Battiato, rifatta da Subsonica. Adesso chi ha capito il titolo alzi la mano. Meno male che non c'è nessuno. Però facciamo finta che abbiate capito tutti, poi comunque magari l'ascolteremo più tardi. E dice a un certo punto: siamo lucciole che stanno nelle tenebre. E quello che piaceva a noi, e quello che mi è venuto in mente a me nel proporlo agli altri, era che era un po' come noi. Al fine siamo studenti, non abbiamo questa luce potentissima, però tutti insieme riusciamo a fare più luce. E l'idea, quella della trasmissione, era toccare temi scomodi e illuminarli poeticamente parlando. Con la nostra luce. Con la nostra luce, con la nostra voce. Lo sfottò sui nomi sono stati immensi perché luce di qua, luce di là, non facciamo nessuna attività di prostituzione illegale, chiariamo questa cosa. Poi e quando niente. Abbiamo fatto la puntata sulla prostituzione chiaramente si sono sprecate le battute, però sì, sì, sì. Ci piace divertirci male, ci vogliamo male. Mandiamo una sigla originale. Va bene, dai, lanciamola. Dai, di il nome corretto così. Up Patriots to Arms. Dei popoli che è giunta fino a noi, non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla, e non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Sempre all'amo, le barricate in piazza li fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Chi credete che noi siamo per i capelli che portiamo? Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser. Se le pedane sono piene di scene che si muovono. Jets to arms, engagez-vous. La musica contemporanea mi butta giù, mi butta giù. Jets to arms, engagez-vous. La musica contemporanea mi butta giù. Eccoci di nuovo in studio e visto che stiamo parlando della nostra trasmissione, adesso vorremmo ricordare un po', perché ci siamo affezionati alla fine a quello che abbiamo fatto, e quello che abbiamo trattato, le tematiche che abbiamo approfondito in questo tempo. Che la memoria ci assista, insomma. Speriamo. A proposito, te hai qualche ricordo, magari una puntata che ricordi più volentieri, a cui sei affezionata particolarmente? Ah beh, cioè quelle che abbiamo fatto sulle origini delle mafie l'anno scorso, abbiamo chiamato Isaia Sales, che adoriamo come nostro nuovo idolo, perché ci ha assistito, ci ha chiamato, l'abbiamo chiamato mille volte a casa, sul telefono di casa, sul cellulare, quindi mi sono molto affezionata a quest'uomo. No, ma infatti nel caso ci stessero ascoltando, cosa non molto probabile, volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che in questi 3 anni hanno partecipato con interviste, piuttosto che qui in studio, e i nomi sono veramente veramente tanti, però ecco, hanno arricchito anche con la loro professionalità e esperienza una trasmissione delle tematiche che stavamo trattando, quindi grazie veramente, speriamo ulteriori collaborazioni future. Sì, è stato molto importante avere altre persone che ci parlassero, perché soprattutto agli inizi diciamo che non eravamo proprio ferratissimi sul lavoro in radio, quindi un'assistenza esterna ci è servita. Decisamente. All'inizio ci siamo concentrati soprattutto sulle tematiche legate alla mafia, perché chiaramente era la base da cui partivamo e su cui eravamo un po' più tutti ferrati, diciamo. Sì, diciamo mafia più in senso stretto, nel senso comune. Poi abbiamo toccato altri ambiti, come magari il femminicidio, dove l'atteggiamento mafioso non è palese, però è sicuramente fonte di ispirazione, nel senso che l'uomo cavalca carne, mangia carne, come si diceva, nel senso che è comunque un tema in cui l'atteggiamento mafioso si vede, anche se non c'è un collegamento stretto con la mafia del senso comune, appunto. Quindi poi ecco, i temi si sono ampliati in questo senso. Sì, il femminicidio, a proposito, fu una puntata davvero fuori di testa, la prima in assoluto. Eravamo 4 donne qua e 2 di queste ragazze, insomma, non fanno più parte della redazione, ma sono rimaste fan accanite, e è stato veramente fuori di testa. Me la ricordo come un momento speciale, l'inizio di questo percorso che sta continuando, e spero appunto continui, lasciando magari il testimone a nuovi eredi che stiamo cercando. Quindi chiunque voglia venire a far parte della redazione, sta ascoltando, ci cerchi su Facebook Luccione Tenebre, oppure il presidio universitario di Libera Bologna, e prenda contatti, che noi siamo apertissimi a avere nuovi membri. In realtà questa puntata serve soltanto a sponsorizzarci a chiedere nuove persone, perché abbiamo bisogno, siamo tutti vecchi, è un presidio universitario, tra poco finiamo l'università e siamo disperati, quindi... Allora, innanzitutto non è vero che siamo vecchi, è la dimostrazione, manderei un pezzo stragiovane che ha voluto Stefano, il nostro tecnico. Super giovane? Super giovane dentro, cioè se te lo vedi dici, madonna, è così giovane? Né, però di fatto lo è, fidatevi, se lo incontrate è un bell'uomo, è in cerca. Sponsorizziamo anche il tecnico. Stefano, perdonami, ti voglio bene. Questo è per te. Do It Again, dei Chemical Brothers. what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubble gum, blowing up my brainium. Turn off my robotic brain. All my thoughts are all the same. All insane. Do it again. Siamo di nuovo noi e allora, visto che abbiamo parlato del passato, parliamo un po' del futuro. Bisa, cosa ci aspetta? Cosa vedi nella tua sfera di cristallo? Buio, signore, buio, disperazione. No, scherzo. Allora, il nostro palinsesto ci offre delle nuovissime bellissime puntate. In primis il diritto d'abitare, che sarà nel mese questo, no? Febbraio. Sì, adesso febbraio, lo approfondiremo le prossime due puntate. Sì, e stiamo cercando appunto, avremo degli ospiti, quindi insomma state attenti, state connessi. E poi che cosa ci riserva il futuro? Un grande evento. Grande, insomma. Stiamo lavorando a un evento il 4 marzo in Arteria, dove parleremo appunto della radio, perché siamo così, ci piace parlare di noi stessi. No, scherzo. Perché siamo un po' egocentrici. No, ma leggermente. No, e il tema sarà appunto radio nel suo senso evolutivo, ossia che stiamo cercando e si dovrebbero a breve confermare, però ecco, sui dettagli ci ritorneremo più avanti, di parlare appunto tramite conferenza, un aperitivo offerto dall'Arteria gentilmente della radio, la sua evoluzione, quindi la radio ai tempi di Radio Alice, la radio attuale, poi quella che è nelle nuove forme, ossia online. Seguiranno poi due band in concerto e poi la serata, quindi state attenti, aggiornatevi anche tramite Facebook, ricordiamo la pagina Facebook che abbiamo creato con tanto amore, e ora stiamo lavorando anche al logo, quindi ci stiamo modernizzando dopo 3 anni finalmente. Siamo riusciti ad avere la nostra parte social. Sì, esatto. E quindi niente, siamo stracarichi e spero veramente di vedervi tutti, voi carissimi ascoltatori, voi magari camionisti che avete sbagliato a sintonizzarvi, siete capitati in questo momento all'ora di pranzo a sentirci, siete più che accetti, insomma, venite, si beve tutti insieme, si registrerà, penso, una puntata in diretta, quindi potreste essere uno degli ospiti fortunati di Luce e Tenebre. Vero che volete assolutamente essere nostri ospiti, eh? Ci sarà Stefano, il tecnico, vi ricordo che è in cerca, no, scherzo. Sempre bisogno. No, è che dovete sapere che Stefano si diverte molto a prendere in giro, perché vogliamo bene, come fai con le persone appunto a cui vuoi bene. E è una persona leggermente permalosa, per cui è ancora più divertente. E quindi ci ammazza. Esatto, però... quindi io probabilmente alla festa non ci sarò, però ricordatevi di me come una persona simpatica, comunque ci ha provato nella vita e che va voluto bene. Benissimo, adesso vi lascerei con una canzone che dedico alla mia coinquilina veneta, che è l'unico modo che ho per farla ascoltare la trasmissione e dedicarle roba, altrimenti non la sente, quindi per dire l'affetto che ci portano anche i conoscenti. Quindi le dedico Il bevitore longevo del Duo Bucolico. Canzonetta di Forlimpopoli. Ah! Canzonetta di Forlimpopoli. Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa. Gli diceva suo fratello, che era attore di film porno, perlomeno non fumare 3 pacchetti al giorno. Ma quando ci rimase secco in un incidente di lavoro, lui fumò per la tristezza 4 stecche di Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore, gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme. Birra, forse si trattava di mirra. Mirra. No, e sono sicuro che era birra di Betlemme. Mirra, mirra. È il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo. Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso. Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita. Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo 2 banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti. Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate? Come gli altri, è morto. Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo. Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra 4 damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene e mi faccio i cazzi miei. È il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo. Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Per l'ultima volta, e ora siamo arrivate alla nostra bellissima rubrica Buffie, che sarà un po' breve oggi, e di cosa parliamo, Lisa? Ma siamo stati abbastanza sul personale, continuerei su questo profilo. Non lo so, Ele, c'è qualche libro che hai letto ultimamente da consigliare al nostro pubblico? Sì, dai, facciamo le persone acculturate, che facciamo vedere quanta cultura abbiamo. No, adesso... Un sacco. No, un libro che ho letto è Il mio nome è Rosso, di Orhan Pamuk. E l'ho letto in preparazione a un viaggio a Istanbul che faccio, e quindi volevo leggere qualche autore turco, visto che non mi era mai capitato, ed è un libro molto bello, un po' ridondante a livello descrittivo, però se sapete sopportare bene è bellissimo, come a livello di descrizioni di Istanbul. Ripetiamo il nome magari. Il mio nome è Rosso. Il tuo nome è Rosso. Benissimo. Io invece... E tu, Lisa? No, io ho letto, e mi vergogno a dirlo, molto tardi nella mia vita, però finalmente ho letto Il buio oltre la siepe. Meglio tardi che meglio mai. Meglio tardi che mai, a maggior ragione che il 14 luglio, almeno in America e in Italia penso successivamente, esce il continuo, che si chiama God Set a Watchman, giusto Ele? Sì, bravissimo. Che sembra, insomma, ci sia stata una vicenda del tipo che era già pronto il romanzo, poi per una scelta della casa editrice è stato posticipato di diversi anni, però insomma ritorna Scout al protagonista, così almeno le nostre fonti, ecco, si dicono, quindi sarà un... Ebbene, quindi un altro a luglio, segnatelo perché è tra un po' di tempo. Però siamo in anticipo, ma perché ci teniamo, insomma, a essere sempre... Perché sul pezzo anticipiamo pezzo. Le mode. A proposito di pezzi, io manderei l'ultima, un po' di reggae, perché sono andata al loro concerto qua a Bologna qualche mese fa. Loro sono Mellow Mood, dal nuovo album Dig Dig. Alla prossima. Jacob, Jacob, our one. Change and forward, I dig, we are digging out. Alambic, you know, I said around the world. Oi! Me, I go dig, dig, dig. And it, I go beat, beat, beat. And it, I go dig, dig, dig. So deep that me, I fit take a lift. Oh, yo, me, I go shot, shot, shot. But the chucks, them a lock, lock, lock. I evidence from the rock, rock, rock. So me. Can't turn back, back, back. Down it I go down. Won't see me digging. Them can't feel the best on me while me was sleeping. But me now going down with all my regrets. Before the sun go down, them wanna hey, hey, hey. Dig it I go big. It's like a revive. Me and my sheep with the butters and driven. But when me see you proper, yeah, this is my landfall. Ashes to ashes, dust to dust. Me I go dig, dig, dig. And it a go beat, beat, beat. And it a go deep, deep, deep. So deep that me a fi take a lift. Oh, yo, me a go shot, shot, shot. But the chucks them a lock, lock, lock. A evidence from the rock, rock, rock. So me can't turn back, back, back. Hey. Serious times are serious times this. Part I go dead as something, part of me rise. These are serious times, some serious times so. Come, come down, go down, trouble some iron. No have no digger, no have JCB need a me. Take with me finger, pan the rocks like margarita. Done me, I go zip me, pick figure done there. Finger upon the trigger, used to shoot me, I go back. Me I go dig, dig, dig. And it I go beat, beat, beat. Yeah, no, no. And it I go deep, deep, deep. Alright then. So deep that me have to take a leap. Oh, yo, me I go shot, shot, shot. But the chucks them a lock, lock, lock. I evidence from the rock, rock, rock. Yeah, no, no. So me can't turn back, back, back. Yes, hey, woman fine, in my oldest image, hey. So sure, semi dig, I'ma cause no damage, hey. Mama worry so far, them come along for a wheel of grievance, hey. Got the little dig, dig, bigger than ring, tingling in the middle, last me why? Make one dig this sound deep, me don't know why. But me, I got dig, dig, dig, deep. Yeah, for no compensate, me, you want to take a lift, hey. It, I go bigger than big. Me, I go dig, dig, dig. And it, I go beat, beat, beat. So deep that me have to take a leap. Oh, yo, me have go shot, shot, shot. But the chucks, them a lock, lock, lock. I evidence from the rock, rock, rock. So me can't turn back, back, back. Good night, good, good, good. I mean, pop, but it's them. Me, super, market, Charlie. I'll carry on trees and bullies. Situation ring a bell, thinking down a big cell. It a go do puzzle, he make up this quarrel. I go on and break me stone, I know I van break me down. But they go all big like a womb, bigger than a tenement zone. The only match we go fail, revive in a open world. Listen to him and tell, I make us swell and hell.